Da diversi giorni i lavoratori degli impianti di risalita qui in Francia sono in sciopero. Sono in sciopero perché sono colpiti da una delle tante controriforme di Macron, cioè la riforma della disoccupazione. Che cos'è cambiato? Sostanzialmente l'inverno scorso, a partire da novembre, i criteri per accedervi sono più stringenti. Con quale motivazione è stato fatto questo? È stato detto: guardate, la disoccupazione è in diminuzione, anche se rimane a livelli molto alti, intorno al 10%, ma più bassa delle medie solite della Francia, appunto, poiché la disoccupazione è in diminuzione, possiamo stringere un po' i cordoni della borsa. Qual è stato l'effetto? Che tantissimi, soprattutto ragazzi e ragazze giovani, che fanno impieghi stagionali, come appunto quello degli impianti di risalita, o comunque precari, pensiamo a tanti lavori temporanei nella ristorazione rapida o in tanti settori come gli hotel o anche impieghi normali d'ufficio, in cui prevalgono i contratti a tempo determinato o interinali. Bene, prima avevano una disoccupazione con criteri più semplici e che arrivava a coprire la stessa durata del contratto, cioè se io avevo un contratto di 6 mesi, avevo diritto alla disoccupazione per 6 mesi. Era sufficiente inoltre avere qualche mensilità lavorata negli ultimi 2 anni per potervi accedere. Bene, questi criteri sono stati ristretti, ci vogliono almeno 6 mesi di lavoro. In ogni caso, diciamo, è molto più difficile accedere. Per cui i lavoratori stagionali che nella scorsa stagione si trovavano con una disoccupazione alla fine del contratto, in questo momento qui si trovano scoperti o parzialmente scoperti e con una disoccupazione inferiore, con un importo di disoccupazione inferiore. Da qui nasce lo sciopero, uno sciopero che è notevole perché appunto è promosso da lavoratori precari. Una cosa che noi in Italia non immaginiamo nemmeno, è molto difficile riuscire a mobilitare i precari. Bene, qui sono in sciopero e sono in sciopero ad oltranza. Hanno fatto diverse manifestazioni nelle località sciistiche nel momento di massima affluenza, come appunto febbraio, per farsi sentire. Bisogna dire che effettivamente in Francia negli ultimi tempi, da dicembre in poi, ci sono scioperi molto estesi e molto profondi contro la riforma delle pensioni di Macron. I trasporti pubblici a Parigi sono stati bloccati con uno sciopero ad oltranza dal 5 dicembre fino a oltre metà gennaio, e così i treni, poi sono stati bloccati le centrali elettriche, quelle nucleari, sono state staccate la luce a certi quartieri ricchi, mentre è stato riattaccato il contatore ad alcune famiglie che non potevano permettersi di pagare la luce, sono stati bloccati gli inceneritori, sono stati bloccati i depositi degli autobus, insomma, sono stati bloccati i licei e parzialmente le università, e ci sono state grandi manifestazioni, tanto che giovedì saremo al 12 sciopero generale, quindi c'è una mobilitazione più larga che sicuramente ha sostenuto questa mobilitazione dei lavoratori degli impianti di risalita. Diciamo che quello che sta avvenendo negli impianti di risalita contro la disoccupazione e gli scioperi molto grandi contro la riforma delle pensioni sono un po' uno sciopero in realtà contro e un'opposizione contro a tutte le politiche portate avanti da Macron, che dall'inizio del mandato ha deciso, per impedire appunto la mobilitazione dei lavoratori, di fare riforme lampo. Io direi dei blitzkrieg, se volete passarmi la parola, cioè riforme fatte a una velocità tale da non permettere ai sindacati di rispondere. Lui fu eletto nel maggio del 2017, a settembre, quindi fatto in agosto, la riforma del mercato del lavoro era fatta. Bene, questa volta sono riusciti a bloccarlo e stanno organizzando tutta la forza possibile in questo momento qui per bloccare. Se vincono, la fine di Macron sarà certa, tanto sugli impianti di risalita e sulla disoccupazione quanto sulle pensioni. Vista la profondità delle mobilitazioni, anche la maggioranza di Macron sta vacillando. Quindi penso che per la prima volta da tanto tempo c'è la possibilità, non dico la certezza, ma almeno la possibilità di vincere.